Italia in controluce. Sono le 13:33 minuti, ogni giorno a quest'ora su Radio 24 andiamo a cercare i fatti, i personaggi che ci parlano anche in modo inedito di noi. Italia in controluce, buongiorno da Alessio Maurizi. Oggi le notizie arrivano da Reggio Calabria, come avete sentito, con il nuovo piano del governo contro la mafia e con la decisione di fare proprio di Reggio Calabria la sede dell'Agenzia per i beni sequestrati e confiscati. Combattere la mafia vuol dire infatti anche trovare soluzioni originali ed efficaci, come per esempio la gestione dei patrimoni sottratti alla criminalità, che non dimentichiamolo mai, prima di tutto resta un'economia illegale fatta di attività che producono ricchezze, beni mobili e immobili. E allora seguiamo Raffaella Calandra in questo breve reportage sul presente e il futuro dei beni confiscati alla mafia. Sottratti alle cosche, con fatica, sequestrati ma spesso bloccati e dimenticati anche per anni, e quando alla fine si cerca di riutilizzarli spesso sono ormai ruderi, quasi più costosi da restaurare che da costruire ex novo, con buona pace dei simboli. In Sicilia, ad Altofonte, il paese di Mimmo Racuglia, tra gli ultimi capi di Cosa Nostra catturati, la caserma dovrebbe sorgere in una villa di tre piani tolta ad un altro boss, Camarda, ma i soldi per restaurare la mancano e i muri progressivamente crollano. Anche se ultimamente i tempi si stanno accorciando, in media dura più di 10 anni l'intero percorso, dal sequestro all'assegnazione di un bene confiscato alle mafie, quel patrimonio da aggredire che tutti concordano nel considerare la vera chiave di volta contro il potere malavitoso. 10 anni in cui molto spesso sono i clan stessi a rendere inutilizzabile quella ricchezza che non è più loro. Davide Patti di Libera. Abbiamo beni che sono ancora occupati dai stessi mafiosi, io penso a dei terreni a Isola di Capo Rizzuto, il 35% di questi beni che sono ancora occupati. Penso a delle situazioni di aziende in stato di completo abbandono, come le aziende bufaline nell'agro aversano, che sono state confiscate accanto ai casalesi e rimaste lì, beni anche abbandonati, beni immobili che potrebbero essere utilizzati anche, penso, vicino di a Rosarno, nella Piana Gioia Tauro, per quelle persone che vengono da altri paesi e che hanno bisogno di struttura. E quando poi vengono riutilizzati diventano anche elementi di produzione, di lavoro. Ci sono tanti giovani che hanno costituito cooperative sociali che producono la pasta, l'olio, il vino, hanno stretto dei rapporti di partenariato con i produttori agricoli locali che si convertono a biologico, quindi la lotta alle mafie unito alla difesa dell'ambiente. In totale sono 8.933 i beni immobili confiscati alla mafia in tutta Italia, secondo gli ultimi dati del 2009 del commissario straordinario del governo. 1.185 invece le aziende, cifre che sono il segno di una riconquista dello Stato, ma se si guarda poi alla loro storia si scopre che il 52% del totale resta non utilizzato, e spesso proprio perché gli immobili sono ormai inagibili. A pesare ci sono i tempi della giustizia, certo, ma è anche vero che negli ultimi anni è cambiata anche la gestione di questi beni. In principio ci fu un commissario straordinario, poi tutto l'archivio passò al demanio, quindi si è tornati di nuovo ad un commissario, delegando però compiti operativi ai prefetti, e ora all'orizzonte c'è l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. Il ruolo di commissario l'ha appena lasciato Angelo Maruccia. La riforma dell'anno scorso, e il Parlamento ha approvato sulla scorta di una nostra proposta che attribuisce ai prefetti la competenza per la destinazione dei beni, e noi abbiamo chiuso in 18 mesi quasi 1.500 destinazioni contro i circa 3.900 che erano stati destinati nei 12 anni precedenti. Dalla Lombardia al Lazio, alla Puglia, e abbiamo sottoscritto protocolli alla Calabria, protocolli e attività che hanno concretamente portato importanti risorse finanziarie per la ristrutturazione e per l'utilizzo dei beni confiscati. La Lombardia ha destinato 4 milioni di euro, 2 per le ristrutturazioni, 2 per pagare le ipoteche. La Regione Puglia ha stesso un bando di 7 milioni di euro, la Regione Lazio anche. Lei come vede adesso la prospettiva della creazione di un'agenzia nazionale? Noi abbiamo proposto la istituzione istituzione di una agenzia già nella relazione del 2008. Ho scritto al Presidente del Consiglio che occorre un soggetto che abbia poteri straordinari, che si occupi del bene sin dalla fase del sequestro. Di agenzia tutti ne parlano, bisogna vedere se è una scatola vuota o se dentro si propone come un soggetto realmente dotato di poteri, di mezzi, di risorse che vengono investite nel settore dei beni confiscati per farne diventare un settore propulsore, un settore di crescita, di sviluppo e non un settore perennemente in crisi. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore. Italia in controluce. Diverse città sono da giorni alle prese con lo sforamento dei limiti antismog. Milano è tra queste. Oggi le autorità locali hanno deciso di agire col blocco del traffico. Domenica dalle 10 alle 18 potranno circolare solo le auto GPL, metano ed elettriche. Ma la questione dell'inquinamento atmosferico, che ciclicamente si ripropone, specialmente in inverno in forma di emergenza, richiede risposte strutturali. A che punto siamo? Abbiamo sufficiente coraggio? Sentiamo Laura Bettini. La decisione è arrivata dopo giorni di polemiche. A Milano, infatti, si è al 17° giorno consecutivo di superamento dei limiti di PM10 e al 21° dall'inizio dell'anno. Vale a dire che in un mese Milano si è giocata quasi tutte le 35 giornate di sforamento ammesse in un anno intero. Il sindaco Moratti quindi ha annunciato un giorno di stop alle auto e, se l'emergenza perdurerà, anche l'inasprimento dell'Ecopass per l'area centrale della città. Al 20° giorno consecutivo di sforamento saranno costretti a pagare il ticket antismog anche i veicoli diesel Euro 4 senza filtro antiparticolato. Un giorno non basterà, nessuno si illude, ma è il segnale di determinazione che in molti chiedevano all'amministrazione, compresi i consiglieri comunali Fedrighini dei Verdi e Montalbetti di Milano Civica, che nei giorni scorsi hanno anche occupato Palazzo Marino in segno di protesta. E ci vorrebbe anche un altro segnale di buona volontà, sottolinea Montalbetti. Il problema del riscaldamento è un problema che esiste, c'è un problema di riconvenzionamento di molte caldaie, cominciando da quelle del Comune di Milano. Credo che la prima cosa da fare sia verificare lo stato in cui si trovano, e ci risulta che molte sono fuori norma, e soprattutto provvedere perché siano messe a norma e vengano abbassate le temperature. Il Presidente della Regione si augura che il blocco di domenica serva da monito ai cittadini e che questi colgano tutte le opportunità offerte dalla regione stessa. Ho annunciato che stanziamo 1 milione di euro mettendolo immediatamente a disposizione dei comuni perché aumentino i controlli, perché siano rispettate le leggi, e cioè perché le macchine inquinanti non circolino, perché le temperature nei luoghi di lavoro, nei luoghi pubblici e nelle case non superino i 20 gradi, e poi un appello ai cittadini, perché se qui vogliamo, come tutti vogliamo, migliorare la qualità dell'aria, occorre mettere in campo milioni di comportamenti corretti e virtuosi. Milano e la Lombardia non sono la maglia nera dell'inquinamento, né in Italia né in Europa. Lo ripetono sempre il presidente Formigoni e il vice sindaco di Milano Decorato. È vero, ma perché non aspirare alla maglia rosa? Comunque il Codacons, associazione delle associazioni di consumatori, ormai è convinto che resti solo la via dei tribunali per costringere le amministrazioni a prendere sul serio i limiti di inquinamento previsti dalla legge. E così, a seguito di esposti del Codacons, hanno ricevuto avvisi di garanzia il presidente Formigoni, il sindaco Moratti, l'attuale presidente della provincia Podestà e il suo predecessore Penati. E appena possibile passeremo alla class action, ci dice il presidente dell'associazione Marco Maria Donzelli. Abbiamo fatto per tanti anni delle denunce, adesso si muove qualcosa, nel senso che anche il giudice penale dice: ma qui la legge dice che Comune, la Regione non possono occuparsi dell'inquinamento così dicendo facciamo la giornata dell'inquinamento, devono risolvere il problema, dice la legge. Se supera di 35 volte il limite stabilito dalla legge di superamento dei polveri sottili, il Comune deve intervenire. Non è che può dire facciamo questo ecopass, facciamo i parcheggi, facciamo questo, no. Deve risolvere. Nell'ambito dell'economia, la class action contro le aziende che mettono sul mercato prodotti difettosi significa regolazione del mercato. Significa che l'azienda, per paura della class action, non butta più sul mercato qualche cosa che potrebbe essere dannoso per i consumatori. Nell'ambito della pubblica amministrazione, chi ha poteri di governo come singolo sindaco della regione, dice la legge, deve dare un risultato per il disinquinamento. Laura Bettini, GR24 e Sole 24 Ore. Ed è tutto per Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Potete scriverci le vostre storie a controluce@radio24.it oppure venite a cercarci su Facebook Radio 24 Italia in Controluce. Ci risentiamo alla prossima edizione, domattina alle 6.30. Buona giornata da Alessio Maurizio.